Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata, oppure buon termine di serata se vi trovate invece all'ascolto alle 20.45, quando appunto mandiamo in replica la puntata. La mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Il mio blog, lo sapete, si chiama Guardie o Ladri, sull'home page del Sole 24 Ore online. Allora, in questi giorni, in queste settimane, potremmo anche dire, si fa un gran parlare di intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, tabulati telefonici, archivio o archivi di consulenti delle procure. Abbiamo tutti letto del famoso archivio Genchi. Sarà vero, sarà falso? Non lo sappiamo. Devo dire che una certa sorpresa mi ha colto quando, sia sul Messaggero Veneto che sul Gazzettino, giornali del Nord-Est, ho letto sia ieri che ieri l'altro, ma ancora oggi, che intanto in Friuli Venezia Giulia scoppia il caso intercettazioni. E perché scoppia questo caso intercettazioni? Perché un senatore del PDL, quello che il Gazzettino chiama una vecchia volpe politica della regione, il senatore del PDL appunto Ferruccio Saro, Giuseppe Saro, ma tutti lo conoscono come Ferruccio, presenta un'interrogazione urgente a risposta orale al ministro della giustizia Angelino Alfano, perché a suo dire anche nel Friuli Venezia Giulia ci sarebbe un centro d'ascolto non propriamente autorizzato. Questa cosa, devo dire, obiettivamente mi ha incuriosito, perché gli abusi a cui si potrebbe andare incontro, voi lo immaginate, sono tantissimi. Già oggi si dice che questo fantomatico reale archivio Genchi abbia intercettato un italiano su 5, un italiano su 10, insomma non si capisce bene, ma sembra che tutti siamo sotto questo orecchio di questo grande fratello telefonico. Quindi io ho detto, beh, andiamo a sentire dalla viva voce del senatore Ferruccio Saro come stanno le cose, ed è per questo che gli do il buongiorno e il benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Onorevole Saro, che cosa accade in Friuli Venezia Giulia? Ci stanno ascoltando in questo momento, secondo lei? Ma sicuramente ci stanno ascoltando molti, perché la sua radio è molto sentita anche nella nostra regione. Ecco, ma c'è anche qualche orecchio che non dovrebbe, che si riferiva a quello. Assolutamente. Io pensavo agli ascoltatori, radioascoltatori. No, assolutamente no. Ma può darsi che ci stiano ascoltando anche qualcun altro, ma questo non sono in grado di dimostrarglielo adesso. Ecco, ma comunque, è vero che ci sarebbe questo centro di ascolto? Io ho presentato un'interrogazione urgente al ministro Alfano. Angelino Alfano, per conoscere, per avere alcune risposte su alcune questioni. Se corrisponde al vero che presso una struttura della regione, in particolare la direzione delle foreste, quindi immagino soprattutto con dei forestali, perché in Friuli Venezia Giulia le guardie forestali sono dipendenti dalla regione, c'era un centro autorizzato, se c'è un centro o se c'è stato un centro autorizzato dalla magistratura per fare intercettazioni o telefoniche o ambientali. Chiaramente a me risulta che ci sia, non so adesso se è stato recentemente smantellato oppure se funziona ancora, per cui non sono in grado di rispondere alla prima domanda ironica che lei mi ha fatto, se siamo ascoltati. Ma al di là di questo, certamente c'è stato un centro che operava sul mandato di ascolto. Ecco, anche perché lei collegato a reati, partendo probabilmente da procedimenti di natura cosiddetta ambientale, però io chiedo se accanto alle persone che venivano, dovevano essere perseguite perché al centro di qualche indagine, sono state anche registrazioni, diciamo, di non persone coinvolte. Ecco, ma lei ritiene verosimile questa grandissima sorpresa che hanno manifestato alcuni suoi colleghi politici della sua regione, il consigliere regionale Enzo Marsilio, che è stato già assessore all'agricoltura e alle foreste, ha detto ma sì, forse sarà all'interno del Corpo Forestale, l'ex direttore generale della regione, poi del Comune di Trieste, Andrea Viero, dice: ma io francamente non ne so niente. Insomma, la sorprende la sorpresa dei suoi colleghi o di comunque altri dirigenti? Ma io credo che alcuni sicuramente sapessero, altri forse non se ne erano accorti. Questo può succedere, sa, la regione Friuli Venezia Giulia è una struttura molto complessa e queste cose possono succedere anche in modo, ecco, realizzato in modo riservato. Però sicuramente ammettiamo, come certo che abbiano svolto alcuni forestali funzioni di polizia giudiziaria, la richiesta dovrebbe essere stata inoltrata da parte della magistratura direttamente alla regione perché autorizzi del personale, del proprio personale, a svolgere questa funzione. Quindi lei dice la regione, i vertici della regione non potevano non sapere. No, insomma. Ma insomma, quantomeno i dirigenti del settore, perché poi può darsi che sia stata mantenuta in un ambito di riservatezza, insomma. Ecco, ma cosa, vorrei chiederle un'altra cosa, sì. Ma anche altre regioni potrebbero trovarsi in questa condizione? Intendo dire, è una situazione nella quale si trova la regione Friuli Venezia Giulia grazie al suo stato di regione a statuto speciale, e quindi nella stessa situazione potrebbero trovarsi ad esempio la regione Sicilia, la regione Sardegna, la regione Valle d'Aosta, oppure anche le altre regioni potrebbero avere dei centri d'ascolto autorizzati su delega appunto dei magistrati, come è il caso, lei ha correttamente detto, della regione. La regione è statuto speciale, laddove i forestali fanno parte dell'organico regionale, è probabile che, come si dice, ce l'abbiano. Se la magistratura richiede dei forestali dipendenti dalla regione di svolgere funzioni di polizia giudiziaria, quindi espletare indagini, quindi anche fare intercettazione, e può darsi che ce l'abbiano anche la regione Stu speciale. Nelle altre regioni dove il corpo forestale è di dipendenza dello Stato, in particolare il Ministero dell'Agricoltura, chiaramente ho visto che ultimamente su sofisticazione alimentare o cose del genere il Ministro ha molto attivato questo corpo. È chiaro che avrà mandati di polizia giudiziaria il corpo statale. Quindi no? Diciamo quindi, che potrebbero, usiamo, sì, il condizionale, esserci dei centri di ascolto, sì, su delega delle procure della Repubblica, sì, di quelle regioni a statuto speciale attivi, dormienti, sì, o attivabili su richiesta delle procure. Questo potrebbe essere, bisognerebbe fare una verifica. Certamente regione per... io ho chiesto, evidentemente sapendo che c'è stato, non so se è ancora in corso, il Friuli Venezia Giulia. È chiaro che la cosa per molti aspetti ha anche sollevato qualcosa, diciamo così, qualche risolino da parte di qualcuno, nel senso che anche i forestali svolgono compiti di polizia giudiziaria, non solo 35 anni fa volevano fare il colpo di Stato quando c'era Iunio Valerio Borghese, si ricorda, certo, quando fu quel tentativo, si pensava di utilizzare per fare il colpo di Stato, adesso si utilizzano per fare funzioni intercettazioni, veniva tutti da ridere, insomma. No? Senta, ma una domanda cattiva, ma lei, che non è nato ieri politicamente, intendo dire, ma perché tira fuori adesso questa storia? Perché fa comodo alla vostra parte politica, oppure perché è mosso da un fremito, come dire, di onestà intellettuale? Ma guardi che onestamente non lo sapevo, l'ho saputo da pochissimo tempo, non lo sapevo, no? Io l'ho saputo dall'ultima settimana, no? Perché quando ero amministratore regionale, prima di essere deputato e senatore, non ero a conoscenza, nessuno me l'ha mai detto e non credo forse nemmeno attivo in quella fase. Ma chi gliel'ha detto, onorevole? Tanto non ci sente nessuno, chi gliel'ha detto? Sono venuti a riferirmi delle persone che c'era qui, che c'è questo centro, di far fare una e di verificare se accanto alle indagini su. Ma lei con la procura non ha parlato, con la procura di Trieste ad esempio? No, non ho parlato, io non sono andato a parlare con il procuratore, con nessuno in sede locale, non sta a me, nella mia funzione di parlamentare. Ma ho visto che anche i giornali non hanno però sentito la procura, nessuno. No, io potevo solo interrogare il ministro, insomma, certo, per sapere come stanno veramente le cose. Ma non gli ha telefonato, non gli ha risposto nel frattempo, no? No, e beh, guardi, l'ho depositata ieri, adesso gli arriverà sul tavolo nei prossimi giorni, poi faranno le istruttorie, le verifiche, manderà un suo ispettore, le cose che fa il Ministero per accertare come stanno le cose. Chiaramente è giusto che venga fuori completamente la verità, la verità. Se possibile la verità. La mia opinione è però che obiettivamente non ci possono essere nel nostro paese troppi grandi fratelli, diciamo, insomma, che stanno lì ad ascoltare quello che noi diciamo. Onorevole Saro, io la ringrazio ovviamente del suo intervento. Le posso dire tranquillamente che staremo appresso alla questione, perché a questo punto ci incuriosisce, vogliamo capire se siano stati commessi degli abusi o meno dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e se siano stati commessi o meno degli abusi nel momento in cui qualcuno ascoltava. La ringrazio, le auguro buon lavoro, dico grazie anche in regia a Pietro Lacorte, in studio a Laura Fagin e Roberto Galullo. Nel ricordarvi il blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore, vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.